Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Ce ne andiamo dall'Afghanistan, dice Frattini, dopo gli attentati di stamattina a Kabul, in cui è morto anche un italiano. Riciclaggio, sequestrato il tesoretto di Mokbel, prima notte in carcere per scaglia di Fastweb, rientrato nella notte in Italia. Bertolaso, ottimista, abbiamo fermato la chiazza di gasolio nel Po. Morgan ad anno zero ieri sera, Gionardi attacca, ha fatto propaganda alla droga. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In apertura torniamo sugli attentati di questa mattina in Afghanistan. Fra le vittime, come sapete, anche un italiano. Qui accanto a me Cristina Carpinelli. Buongiorno, sì, un comando numeroso composto da almeno 8 assalitori, primi ad attaccare la zona di Kabul dove vivono spesso gli stranieri, sono entrati in azione facendosi saltare in aria a bordo di autobombe. Gli altri dietro sono entrati sparando in due hotel, il Safi Landmark e il centro commerciale Kabul City Center, e sono morte in totale 17 persone, 32 feriti. Tra le vittime, come dicevate, anche un italiano, si tratta di Pietro Antonio Colazzo, questo è il suo nome. La Farnesina ha appena diffuso appunto la sua identità. Si trovava a Kabul ufficialmente come consigliere diplomatico presso l'ambasciata italiana, ma era, secondo fonti verificate, un uomo dei servizi segreti, anzi si trattava del numero 2 dell'AISE, il servizio di informazione per la sicurezza esterna. L'italiano sarebbe stato ucciso da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre si trovava all'interno del Park Residence. Poco fa abbiamo intervistato il ministro degli esteri Franco Frattini, che ci ha detto questo. Ma oggi piangiamo ancora purtroppo la morte di un nostro connazionale, un attentato molto articolato con autobombe, ed è evidente che il nostro connazionale svolgeva le funzioni di consigliere diplomatico presso l'ambasciata d'Italia, è rimasto coinvolto come altri in questa tragica vicenda. Quindi lei dice consigliere all'interno dell'ambasciata, altre fonti riferiscono fosse un uomo dei servizi segreti dell'AISE? No, era un funzionario che operava come consigliere diplomatico, proprio lavorava all'ambasciata d'Italia. È evidente che la ricostruzione dell'attentato è ancora in corso, ma quel che è assolutamente chiaro è che l'Italia conferma il proprio impegno in Afghanistan, perché consolidare la sicurezza e la democrazia e rilanciare una prospettiva per quel paese è un interesse di tutti. Non possiamo ovviamente farci intimidire dagli attentati terroristici. Ecco Ministro, lo stesso ambasciatore, ex ambasciatore Sequi, oggi rappresentante dell'Unione Europea in Afghanistan, dice che ci si aspettava insomma una reazione del genere dopo le azioni dei giorni precedenti. Voi come avete accolto questa notizia? Ma è il segnale che i talebani e i terroristi sono indeboliti dagli attacchi della coalizione e tentano in modo disperato gli attacchi in modo più vigliacco possibile. Ecco, queste erano le parole del ministro Frattini. Ora invece a Roma per l'inchiesta sul riciclaggio sentiamo il servizio. Ha passato la sua prima notte in cella da solo Silvio Scaglia, il fondatore ed ex amministratore delegato di Fastweb. È arrivato in nottata a Roma con un jet privato proveniente dalle Antille. All'aeroporto di Ciampino ha trovato ad attenderlo i militari della Guardia di Finanza, che gli hanno notificato l'ordine di arresto emesso nei suoi confronti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Scaglia è stato trasferito nel carcere di Rebibbia. Attraverso il suo legale ha fatto sapere di essere pronto a collaborare con i magistrati. Sarà sentito fra oggi e domani dal GIP di Roma Morgigni, che sta concludendo gli interrogatori di garanzia delle 56 persone arrestate con l'accusa di aver riciclato quasi 2 miliardi di euro frutto di attività illecite. Questa mattina intanto i carabinieri del ROS hanno sequestrato in un magazzino di Roma quello che è ritenuto un primo tesoretto di Gennaro Mokbel, l'imprenditore romano ritenuto il capo dell'organizzazione. Si tratta di migliaia di opere d'arte, dipinti, serigrafie, litografie e sculture di importanti artisti moderni e contemporanei, da De Chirico a Capogrossi. Andrea Viali, GR24, il sole 24 ore, Roma. E nell'inchiesta, come sapete, è coinvolto anche il senatore del PDL Di Girolamo, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, puntuale alle 12 è iniziata qui a Palazzo Madama la riunione dell'ufficio di presidenza allargato della giunta per le immunità del Senato, giunta chiamata ad esaminare la vicenda dell'eleggibilità del senatore Nicola Di Girolamo. Dopo le sollecitazioni del presidente Schifani è stata convocata intanto per martedì prossimo 2 marzo la conferenza dei capigruppo che dovrà decidere se assegnare anche all'aula la stessa questione. Di fatto Di Girolamo è stato scaricato da tutte le forze politiche a questo punto per evitare che gli organi parlamentari competenti siano chiamati ad autorizzare o meno il suo arresto. Si stanno studiando i modi per arrivare prima alla decadenza da senatore. L'intera vicenda ha poi riaperto il dibattito sugli eletti all'estero. È necessario evitare i rischi di manipolazione dei voti, dicono maggioranza ed opposizione. L'esordio del 2006 fu disastroso, dice il Popolo della Libertà. Poi brogli e dubbi sui finanziamenti ad ogni elezione. Gli italiani all'estero devono poter votare, spiegano dal centro-sinistra, ma per deputati e senatori che stanno in Italia. E da Roma è tutto, linea allo studio. E sempre stamattina la Guardia di Finanza ha scoperto una maxi evasione fiscale. 2.000 furbetti per un bottino di 2 miliardi di euro. Queste le cifre della nuova offensiva condotta dalle Fiamme Gialle dall'Agenzia delle Entrate. Si riferisce al periodo 2007-2008 e riguarda regioni come Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Si tratta soprattutto di imprenditori e liberi professionisti che hanno portato all'estero capitali superiori a 500.000 euro ciascuno attraverso intermediari finanziari. Svizzera, Singapore e Panama le mete più gettonate. I controlli in corso dovranno verificare se si tratta solo di un'omessa indicazione se dietro c'è qualcosa di più consistente. È da ricordare che con il decreto legge varato la scorsa estate spetta al contribuente che ha capitali in un paradiso fiscale provare che non sono frutto di evasione. Pesanti le conseguenze, riferiscono le Fiamme Gialle, per coloro che non saranno in grado di dimostrare la regolarità delle operazioni scoperte. Alessandra Schepi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sul fronte della giustizia il governo intende andare avanti. Il programma, detto il guardasigilli Alfano, dovrà essere realizzato dalle intercettazioni alla ragionevole durata dei processi al legittimo impedimento. Intanto, dopo la decisione della Cassazione di prescrivere il reato di corruzione all'imputato David Mills, riprende domani a Milano il processo a carico di Silvio Berlusconi. Ci colleghiamo in diretta con Palazzo di Giustizia di Milano e con Raffaella Calandra. Buongiorno, sospendere tutto in attesa delle motivazioni della Cassazione sul caso Mills. Domani alla ripresa del processo per Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari è questa la richiesta che avanzeranno i legali del Premier dopo che la Suprema Corte ieri ha annullato, stabilendo la prescrizione della prescrizione del reato contestato all'ex coimputato, appunto, David Mills, sempre per corruzione in atti giudiziari. In base ai primi calcoli il procedimento alla Premier, che però era stato superato e diviso da quello a Mills per il lodo Fano, avrebbe tempo ancora fino alla primavera del 2011, prima della prescrizione che era stata congelata proprio in attesa della pronuncia della Consulta. Intanto un altro personaggio coinvolto nel processo Mills, Benjamin Marrace, avvocato d'affari di Gibilterra, è stato arrestato a Gibilterra per frode fiscale insieme al fratello. Aveva deposto in videoconferenza anche al processo Mills, finendo poi a sua volta indagato per falsa testimonianza. Per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra, e in questi minuti restiamo a Milano perché in questi minuti il punto in comune fra sindaco e vice sindaco Moratti è decorato sulla sicurezza a Milano dopo gli ultimi avvenimenti. Ci colleghiamo con Irene Privitera. Sì, buongiorno, è stato fermato questa mattina un marocchino di 30 anni per il ferimento ieri sera di un connazionale. Un giovane di 20 anni accoltellato alle gambe e alla tempia e ricoverato in prognosi riservata. È avvenuto ancora nel quartiere multietnico di via Padova, a meno di 2 settimane dall'omicidio dell'egiziano Aziz El Sayed e dalla conseguente rivolta urbana che ha fatto salire l'attenzione sulla situazione del quartiere di via Padova. Ed è in corso proprio in questo momento una conferenza stampa delle autorità a Palazzo Marino. Il sindaco Letizia Moratti ha da poco concluso il suo intervento, ha annunciato il rafforzamento del coordinamento di Polizia di Stato, Polizia Locale e Carabinieri per i controlli degli esercizi commerciali grazie ai 150 uomini mandati dal Viminale. Letizia Moratti ha anche elencato le misure che sono ancora invece allo studio, fra cui la possibilità di introdurre restrizioni per le attività commerciali e una eventuale proposta al governo per la modifica di alcuni aspetti procedurali legati al reato di clandestinità. Per ora è tutto. Grazie Irene, andiamo invece a dell'estero per l'incidente alla nave italiana in Egitto. L'urto poco prima delle 5 di stamane, durante la manovra di attracco nel porto di Sharm el Sheikh in Egitto, la Costa Europa dell'omonima compagnia di navigazione genovese è finita contro un resort. In seguito al violentissimo impatto, 3 marittimi, 2 indiani ed un brasiliano sono morti sul colpo, mentre 4 turisti, 3 donne britanniche ed un italiano, sono rimasti feriti e sono ora ricoverati in condizioni non gravi all'ospedale. A causa dell'urto, la nave ha riportato una falla sulla fiancata destra ed è stata subito evacuata. A bordo si trovavano 147 passeggeri che stavano compiendo una crociera nel Mediterraneo. La Costa Europa è stata varata nel 1986 e completamente rinnovata nel 2002. Al suo interno 742 cabine e 11 suite. Sull'incidente le autorità portuali egiziane hanno aperto un'inchiesta per accertare cause e responsabilità. Andrea Ferro, GR24 Sole 24 Ore, Genova. E siamo allo sport. Nella seconda parte del GR parleremo della nuova delusione arrivata da Vancouver per Carolina Kostner. Invece a casa nostra, ho deciso di vendere il toro, ha detto il presidente Urbano Cairo in un'intervista al quotidiano La Stampa. A Firenze cercasi per il Torino Calcio. Da stamattina la società granata è ufficialmente in vendita. Dopo 5 anni di poche gioie e molti dolori, Urbano Cairo ha deciso di mollare e di cedere la sua squadra al miglior offerente. Una decisione irrevocabile perché la situazione è invivibile, ha detto il presidente in un'intervista alla Stampa. Un sondaggio di qualche tempo fa aveva rivelato che il 70% dei tifosi è con lui, ma la curva è di altro avviso e Cairo, dopo anche la sconfitta di sabato scorso con la Salernitana ultima in classifica, ha finito la pazienza. In questi anni ci ho investito 30 milioni, ricorda. Avrei potuto comprarmi 100 appartamenti, una barca, un aereo personale. Invece mi sono fatto il mazzo sottraendo del tempo ai miei figli. Tutti sforzi che il popolo granata sembra aver dimenticato o comunque ritenere non sufficienti per un presidente osannato quando nell'estate 2005 aveva salvato la squadra dal fallimento, ma poi subito ridimensionato. Lascio una squadra sana senza un euro di debiti, ha detto. Bisogna vedere però chi se la vorrà comprare. Io non vendo a chiunque. Chi cerca pubblicità non lo ricevo neanche, precisa Cairo, che comunque di pubblicità se ne intende. Marco Ferrando, GR24, Sole 24 Ore, Torino. Nella prima parte del GR abbiamo parlato degli ultimi attentati a Kabul in cui è morto purtroppo anche un italiano. Si tratta di Pietro Antonio Colazzo ed era un consigliere diplomatico dell'ambasciata italiana a Kabul. Ministro Frattini ha parlato a Radio 24, ha detto non ce ne andiamo dall'Afghanistan. E poi ampio spazio sempre nella prima parte del GR all'inchiesta sul riciclaggio. Sequestrato il tesoretto di Mokbel nelle ultime ore e prima notte in carcere, questa per Scaglia di Fastweb che è rientrato nella notte in Italia. E ripartiamo invece dal disastro ambientale sul Po causato dal gasolio finito in acqua in provincia di Monza, come sapete, e noi torniamo a collegarci con la nostra inviata Laura Bettini. Buongiorno, vi parlo in questo momento da Isola Serafini, quindi nel Piacentino, dove c'è la diga dell'Enel, quella che, come ha detto pochissimi istanti fa il capo della Protezione Civile Bertolaso visitando l'impianto, la diga che ha frenato la corrente e quindi ha frenato l'onda del gasolio che si stava appunto riversando in tutta la lunghezza del Po. Sì, perché noi abbiamo annunciato una buona notizia, la buona notizia sarebbe proprio questa, che di fatto la chiazza si sarebbe in qualche modo fermata. La chiazza si è arenata, per così dire, contro la diga ed è molto visibile da chi è qui in osservazione. Chiaramente delle parti di questo gasolio stanno comunque passando attraverso la diga perché la corrente è forte, perché c'è molto vento in questi giorni e quindi in qualche modo gli spruzzi scavalcano la diga e passano dall'altra parte. Secondo Bertolaso però si tratta di una percentuale minima attorno al 10%. Più a valle, quindi verso il delta, verranno messe altre paratie e altre panne per fermare il gasolio prima che questo possa andare a inquinare gli allevamenti che si trovano appunto sul delta del Po e prima che possano inquinare le falde da cui pesca l'acqua la città di Ferrara. Grazie, grazie Laura. Grazie a voi. Giovanardi contro Anno Zero, nel mirino la puntata di ieri sera che ha visto fra gli ospiti il cantante Morgan al centro delle polemiche prima del Festival di Sanremo. Morgan, lo ricordiamo, aveva dichiarato in un'intervista di fare uso di sostanze stupefacenti e per questo è stato escluso dal Festival. Il sottosegretario Carlo Giovanardi, responsabile del Dipartimento Nazionale Antidroga, ha scritto al presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Sergio Zavoli, per denunciare la scandalosa trasmissione di Anno Zero di ieri sera. Una TV di Stato, affermato Giovanardi, ha fatto la propaganda alla droga. Sembrava una specie di fumeria doppio. Queste le parole di Giovanardi. Sentiamo invece quelle di Morgan, ieri sera ospite di Michele Santoro. Non ho detto che la droga fa bene. E chi si azzarda a interpretare il mio pensiero come Morgan ha detto la droga fa bene, non sa leggere. Asino di natura. Io ho detto che penso che quando ho i problemi di depressione, credo che sia un ottimo antidepressivo. Cosa che posso pensare anche del Tavor. Tra l'altro il medico me lo consiglia il Tavor. Me lo prescrive addirittura. Non solo consiglia, mi fa una carta e la firma dove c'è scritto prenda pure la benzodiazepina e tutto il Tavor, il Valium, l'Lexotan, l'Oxanax e compagnia bella. Sono molto nocive. Non voglio dire più o meno della cocaina, ma molto, molto, molto nocive. Omicidio nel napoletano, ucciso un agente di polizia penitenziaria. Stava uscendo di casa di buon mattino per prendere servizio nel carcere femminile di Pozzuoli, in provincia di Napoli, ma qualcuno questa mattina alle 6:15 lo attendeva nel parcheggio nel parco di Varcaturo in cui abitava con la sorella, dopo essersi separato dalla moglie. Ed è lì che la polizia lo ha trovato. Il corpo senza vita dell'agente di polizia penitenziaria Marco Mazzocchi avrebbe compiuto 45 anni il prossimo 9 marzo. È stato ucciso con colpi di pistola, 2 al viso e 1 al petto. Sul movente non c'è ancora chiarezza, ma la squadra mobile è certa che si tratti di un agguato. Dopo una prima segnalazione anonima al 113, la polizia è stata avvertita anche dalla nipote dell'uomo. Laura Vigiano, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Ha del paradossale questa storia che arriva da Palermo. Ascoltiamola. Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. E sembra davvero essersi calato nel ruolo del detenuto diligente e modello il dottor Masino Spadaro, 72 anni, ex re del contrabbando di sigarette e del traffico di droga a Palermo, condannato all'ergastolo. In carcere dal 1983 per l'omicidio del maresciallo dei carabinieri Vito Jevolella, nella casa di reclusione di Spoleto, Masino Spadaro ha avuto modo e tempo di studiare e si è adesso laureato in filosofia. A lui la commissione della facoltà di lettere e filosofia di Perugia ha assegnato un bel 110 dopo aver discusso una tesi sulla non violenza e i fondamenti della religione di Gandhi. La discussione della tesi è avvenuta in carcere, presenti anche alcuni parenti di Spadaro. Che Don Masino avesse una certa propensione per la filosofia si era capito già durante il maxi processo a Cosa Nostra, quando si autodefinì l'Agnelli di Palermo, perché disse ai giudici che grazie al contrabbando di sigarette riusciva a sfamare centinaia di famiglie del quartiere della Calza. Una teoria che negli anni certamente Don Masino Spadaro ha avuto modo di confutare e rinnegare, tanto da abbracciare a 72 anni quella della non violenza di Gandhi. Resta da chiedersi, come fa il suo legale, cosa sarebbe stato di Masino Spadaro se avesse potuto studiare da giovane. Giampiero Casagni, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Andiamo all'estero. Disordini questa mattina nella città cisgiordana di Hebron al termine delle preghiere del venerdì nelle moschee. Giovani palestinesi hanno lanciato sassi contro reparti dell'esercito israeliano. Non si ha al momento, per fortuna, notizia di vittime. E almeno 15 persone sono rimaste uccise e numerose altre ferite in una ressa nella principale moschea di Timbuktu in Mali. L'incidente durante le celebrazioni del Genetlia di Maometto. Si chiama In terra così come in cielo, il nuovo libro di Don Andrea Gallo, il prete genovese, quasi 82 anni, al fianco degli ultimi da una vita, balzato spesso agli onori della cronaca per le sue posizioni a volte un po' in controtendenza rispetto alle indicazioni della Chiesa. Sentiamolo al microfono di Katia Caramelli. Gesù mi ha dato il suo biglietto da visita. Sono venuto per servire e non per essere servito. E io sempre ho avuto sempre questa mia massima fondamentale. Come si articola una sua giornata tipo? Avendo noi da anni e anni l'unità di strada, avendo i ragazzi, avendo il centro storico meraviglioso, il porto, e quindi io sono un uomo by night, cioè un uomo notturno, e quindi direi che verso le 10 mi si aprono gli occhi. Ancora ieri sera ero con un tossicomane di 38 anni, 10 anni di eroina, 10 anni di alcol, bravo cuoco, con la mamma, la fidanzata, e allora abbiamo fatto fino a tardi. Minimo vado a letto ormai verso le 5 di mattina. Saluto le transessuali, saluto le ultime prostitute, poi io sono conosciuto, nessuno ha mai alzato un dito su di me, e poi via via, poi io ho una decina di comunità e posso dire che il Signore benedetto mi dà ancora la salute. A volte non credo neppure a me stesso che questa salute mi abbia seguito fino a 81 anni e mezzo. 5 cardinali, io non ho mai ricevuto neppure una munizione canonica. Ecco, tra i richiami c'è stato anche quello quando ha votato, ha deciso di votare per il referendum. C'era addirittura il cardinal Bertone, che tra l'altro è il mio compagno di università. in quel referendum per la fecondazione assistita si poteva votare sì, no, tutt'al più se uno è dubbioso lascia la scheda bianca, ma non va a inficiare il quorum, che tristezza. E una volta il cardinale mi incontra dopo, tant'è se è andato a votare, ma Eminenza, è mio dovere, e lui mi ha detto, sì, ma è una questione delicata. E l'intervista integrale a Don Gallo andrà in onda in Riflessi d'Oltretevere, in onda domenica alle ore 7:20. La Corte Suprema della Birmania ha confermato la condanna a 18 mesi di arresti domiciliari per la leader dell'opposizione Aung San Suu Kyi, rigettando il ricorso inoltrato dai suoi avvocati. La sentenza esclude di fatto la 64enne Nobel per la pace dalla competizione politica per le elezioni in programma quest'anno. La condanna, torniamo alla condanna dei tre manager di Google Italia per il video del ragazzo disabile mette il bavaglio a internet. Era questa la domanda del sondaggio di Bianco Nero di questa mattina. Convinto che il pronunciamento del Tribunale di Milano limiti la libertà è il 73% degli ascoltatori di Radio 24. Il 27% ha invece risposto no. La sentenza, che per la prima volta ha sancito una corresponsabilità di Google, continua intanto a solleticare la fantasia della stampa estera. Secondo il New York Times, sarebbe stata dettata addirittura dalla volontà dei giudici italiani di tutelare le televisioni berlusconiane, azzoppandone la concorrenza. Il settore manca di regole e non solo in Italia, ma i timori di censura e di bavagli sono fondati. Come conciliare le due esigenze? Stefano Rodotà, ex garante alla privacy. La prospettiva è quella non di norme di tipo repressivo, ma quella che io chiamo una costituzione per internet. In realtà, fino alla lettura delle motivazioni della sentenza, che verranno depositate entro 90 giorni, gli scenari sono imprevedibili. Irene Zerbini, GR24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla pagina sportiva. Delusione, un'altra delusione per Carolina Kostner, la sua, le sue ennesime cadute a Vancouver. Delusione è stata espressa anche da parte dei vertici del CONI. Lacrime e fiatone, sorrisi forzati davanti ai flash con la giustificazione molto comune. Carolina Kostner sui suoi pattini ha vissuto un incubo. È difficile dire, io ho dato il massimo, credo che pian piano dovrò esaurire tutte le cadute che c'ho dentro di me. L'incubo fatto di cadute e umiliazione si è materializzato ancora come un brutto déjà vu. In meno di 5 minuti si è consumato il nuovo, l'ennesimo dramma sportivo della Carolina Azzurra. La seconda volta della Kostner ai giochi è peggio della prima, così brutta da non sembrare vera. Il suo libero è poco più che accennato, costellato di cadute, passaggi saltati e salti nemmeno cominciati. Arriva sedicesima, nemmeno nona, come a Torino. E si vede che non era il momento. Io continuo ad essere testarda perché so che il mio momento deve venire. Testarda, ma per ora dai vertici del CONI raccoglie il giudizio del presidente Petrucci. Grande delusione. Da lei ci aspettavamo grandi cose. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, il prossimo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.